La maggior parte di noi conosce Karen Blixen dalle immagini dell'indimenticabile film del 1985 La mia Africa di Sidney Pollack, in cui Meryl Streep diede volto e corpo alla incredibile scrittrice danese. Ma Karen Dinesen, poi divenuta baronessa Blixen per matrimonio, è molto più di ciò. Il film ci mostra solo gli anni della sua vita nella fattoria che ebbe in Africa, che, sebbene sicuramente i più importanti per il suo risveglio di coscienza, sono solo 17 rispetto ai quasi 80 della sua intera vita. Il resto fu una lunga, profondissima preparazione prima dell'Africa a vedere e sentire ciò che quella terra le avrebbe trasmesso e, dopo il suo ritorno in Danimarca, concretizzazione nel metabolizzarlo e trasmetterlo attraverso la scrittura. Indubbiamente era già predisposta a diventare, come lei stessa si definì, una pagana umanitaria, ma gli anni in Africa, nella sua piantagione di caffè che la rovinò economicamente, furono cruciali perché solo attraverso la perdita di tutto e il contatto profondo e alla pari con i nativi Kikuyu che vivevano sulle terre della fattoria, poté giungere a quella profonda leggerezza di interpretazione della vita e dei suoi passaggi, tipicamente animista, alla luce della quale camminò fino alla fine dei suoi giorni. L'incredibile umorismo del suo carattere coraggioso e fantasioso venne stimolato dalla convivenza con i nativi del Kenya. Il suo spirito di osservazione non perse mai un'occasione per trarre insegnamenti dalla loro saggezza e dal loro rapporto con la terra e con gli spiriti. Le prime opere le firmò, come si usava all'epoca, con uno pseudonimo maschile, Isaac Dinesen. In seguito, con il nome di donna, fu riconosciuta tra le più illustri penne della letteratura del Novecento. Ma a che prezzo ci arrivò? Come sappiamo da tutte le altre scrittrici e artiste che onorano questa nostra scuola delle donne con le loro opere, a prezzo enorme. Negli anni 30 del Novecento Karen lasciò in Africa il suo patrimonio, il suo amore e i suoi sogni e tornò in Danimarca, appena 46enne, nella vecchia casa natale, nuda di fronte alle forze della natura per la seconda parte della sua vita. E da lì ripartì, nel raccoglimento di Rungsted, in assoluta dedizione alla scrittura, passò la seconda metà della sua vita, sperimentando un nuovo genere letterario nel quale fuse il racconto mitico e archetipico non solo dell'Africa, ma anche delle sue esperienze esoteriche con elementi autobiografici. Se gli anni dell'Africa furono interamente dedicati alla fattoria e al continuo tentativo di salvarla dai debiti, quelli danesi le servirono per riportare sulla pagina i cieli sconfinati delle pianure africane, i misteri animisti che guidavano la vita dei nativi e le storie meravigliose che, apparentemente scritte per intrattenere i suoi ospiti coloniali dopo cena, furono in realtà la dichiarazione dei suoi principi e delle sue intuizioni spirituali e mistiche. Scrive in Il pranzo di Babette: «Ciò che abbiamo scelto ci è dato, eppure, allo stesso tempo, ci è accordato ciò che abbiamo rifiutato. Anzi, ciò che abbiamo respinto è versato su noi con abbondanza, perché la misericordia e la verità si sono incontrate, la rettitudine e la felicità si sono baciate». I valori che lei sempre usò durante la sua vita, sia in Africa che fuori dall'Africa. In questo breve racconto, anch'esso trasformato in immortale dallo splendido film di Gabriel Axel del 1987, vincitore di un Oscar, Karen dichiara senza mezzi termini qual è la sua posizione nella storia umana e lo fa con la voce della chef Babette, protagonista del racconto, che ammette di essere stata una comunarda durante la Rivoluzione francese e di essere salita sulle barricate per sparare a quegli stessi nobili per i quali aveva cucinato i suoi manicaretti di chef al Café Anglais di Parigi. La grande ironia di cui Karen dà prova nella sua opera come nella sua vita l'aiuta a superare le tragedie che la privano di tutto ciò che per lei è importante, tranne la sua arte: la perdita della fattoria, del patrimonio, la morte del suo compagno, la malattia venerea trasmessale dal marito barone infedele dal quale poi divorziò. E quella ironia, che spinge Babette a usare i soldi della sua vincita alla lotteria per offrire a un gruppo di poveri contadini danesi lo stesso pranzo che avrebbe cucinato al Café Anglais per i nobili e i principi ai quali aveva sparato dalle barricate. Così la vita riporta equilibrio. Così si può uscire dall'eterno gioco della dualità, perché misericordia e verità si sono incontrate, rettitudine e felicità si sono baciate. La Scuola delle Donne propone di Karen Blixen la raccolta di racconti I Capricci del Destino nell'edizione di Feltrinelli 1986 per la traduzione di Paola Oietti. Da Devana, figlia di Liliana, buon ascolto.